Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, cari radioascoltatori, voi sapete che alcune settimane fa noi abbiamo dedicato due puntate ad un tema molto particolare. Ricorderete che abbiamo sentito il sindaco donna, non so se si possa dire sindachessa, ma comunque diciamo che questo neologismo possiamo anche usarlo, la sindachessa di Isola di Capo Rizzuto, Carla Girasole, che si opponeva ad un'idea, ad un progetto del vicepresidente del Consiglio Provinciale di Crotone, il quale voleva che in qualche modo i familiari dei boss di 'Ndrangheta potessero in qualche modo lavorare all'interno dei campi e dei terreni sottratti alla 'Ndrangheta. C'è stato un vivace scambio di opinioni tra il sindaco Girasole, che diceva così mi delegittimate, ed invece il consigliere comunale, oltretutto di Isola Capo Rizzuto, che diceva no, attraverso anche queste cose passa, come dire, il ravvedimento e la ricostruzione di famiglie che hanno storie di mafia. Oggi torniamo dunque a parlare di beni sottratti alle mafie con un'iniziativa che è invece in itinere questa volta. Vale a dire la costituzione di un consorzio tra i comuni nelle Madonie proprio per la gestione dei beni confiscati alla mafia. Pochi giorni fa è stato siglato questo protocollo d'intesa per costituire il consorzio madonita della legalità e dello sviluppo. Per capire intanto che cosa farà questo consorzio e per avere anche un'opinione su quanto sta accadendo sui beni confiscati alle mafie, noi abbiamo con noi Lucio Guarino, che è il presidente del Consorzio Sviluppo e Legalità. Buongiorno Guarino. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, intanto io direi, partiamo da questo fatto positivo, vale a dire la costituzione attraverso questo protocollo d'intesa di questo consorzio. Ora, quali sono i tempi e soprattutto che beni gestirà e in quale area? Sì, è un'iniziativa voluta da comuni della provincia di Palermo, nella zona delle Madonie. È un'iniziativa in itinere, sono stato coinvolto consigliare loro qual è la migliore strada per addivenire alla costituzione di questa forma associativa, anche rapportandomi con la prefettura di Palermo, prefetture che oggi nel panorama della gestione per finalità sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata giocano un ruolo centrale. Importante, ecco. Di che beni stiamo parlando? Cioè, in quest'area i comuni sono molti, quali sono i beni che sono stati confiscati e a quali famiglie mafiose? Ma là c'è una questione ancora aperta e assai delicata. Mi hanno coinvolto per l'esperienza del Consorzio di Comuni Sviluppo e Legalità, che opera nel Corleonese ormai da 10 anni. Certo. E che io dirigo, e che in questi 10 anni di attività ha creato 100 posti di lavoro gestendo terreni di Rina, di Provenzano, di Brusca e di Bagarella. In quella realtà c'è, come dicevo, una questione assai delicata, che è la questione dei beni confiscati a Michele Greco, che è il famoso fondo di Verbum Caudo. Esatto, Michele Greco, detto il Papa, se non ricordo detto male. Il Papa è stato degli esponenti di spicco dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, uomo di Rina all'interno anche della cupola di Cosa Nostra. Ecco, qual è il problema, perché il problema purtroppo riguarda questi terreni, ma in realtà riguarda molti beni confiscati alla mafia. Prego, lo dica lei, avvocato Guarino, qual è il problema? Il problema è che quei terreni, ormai definitivamente confiscati dallo Stato a Cosa Nostra, oggi non possono essere riutilizzati perché gravati da ipoteche. Esatto. In estrema sintesi, gli istituti di credito richiedono allo Stato, le somme di denaro appunto per far valere appunto quei, quei gravami. Assolutamente. Ricordiamo anche che nel passato ci fu anche un accorato appello da parte di Don Luigi Ciotti a capo di Libera, proprio perché certo. Il governo, i parlamentari, i legislatori in qualche modo potesse anche intervenire su questo problema che, guardate, riguarda almeno un terzo dei beni confiscati alle mafie in tutta Italia. Guarino, volevo chiederle, secondo lei la strada, anche alla luce delle recenti polemiche che ci sono state in Sicilia sul clan Bontade, sulla figlia che lavorava, ancora non ho ben capito, proprio in una società comunque di gestione di un bene confiscato alla mafia. Ecco, secondo lei la strada del recupero di questi familiari passa anche attraverso l'ingresso nei beni confiscati alla mafia stessa, oppure meglio tenere lontane queste persone fino a che il processo di recupero non è completato? Io innanzitutto volevo completare la precedente domanda. Prego. Nel senso che voglio mandare un messaggio positivo. Io so, perché mi risulta personalmente, che il prefetto di Palermo e il prefetto Morcone, il direttore dell'Agenzia Nazionale sui Beni Confiscati, si stanno interessando per risolvere il problema verbum caudo. Quindi possibilmente a breve anche quel feudo appartenuto a Cosa Nostra potrà essere realmente restituito alla società. E la ringrazio per questa notizia, davvero molto bella. Invece quanto al discorso generale... Sì, chiarissimo, è un argomento assai delicato. È importante comprendere se effettivamente quei familiari hanno preso le distanze certo. da coloro i quali facevano parte dell'organizzazione criminale o comunque erano conniventi all'organizzazione criminale. Io ricordo sempre l'esempio di Peppino Impastato, ucciso da Cosa Nostra, il cui padre era un esponente di spicco dell'organizzazione certo. criminale. E anche l'intera famiglia addirittura. Benissimo. E anche l'intera famiglia prendono le distanze dal padre. Ma infatti, infatti noi non abbiamo preso una posizione netta. Certo è che di dubbi ne esistono moltissimi e a noi piace mettere a confronto le idee e le opinioni su quello che è, diciamo, un discorso vitale per la lotta seria ai patrimoni confiscati alle mafie. Voi sapete che proprio i patrimoni sono poi il segno del comando sul territorio delle cosche di mafia. Ringrazio l'avvocato Guarino, Paolo Corleoni in regia e Valeria Coffaro in studio, e Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata, non prima di avervi ricordato la nostra mail sottotiro@radio24.it e il mio blog Guardie o Ladri.